buongiorno. Ciao Gianluigi, ciao. Non mi ricordo come ti chiami. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Centra, cerca lo spazio per calciare, lo fa, c'è una deviazione, occhio a Bassa, il pallone dall'altra parte, Gassi, Albania in vantaggio, al nono minuto ha segnato Skelsen, Gassi, secondo gol, come all'andata, ci va sempre lui in porta, 1-0. Sul primo palo Memushai, c'è una deviazione, vincente di Berat Cismiti. Lotta con Bassa, chi ha la meglio, velocissimo il Rossi, in mezzo c'è Sadiku, una deviazione, Sadiku controlla, Sadiku calcia, la chiude l'Albania, 15 dal 90esimo, Armando Sadiku, 3-0 e Albania a Francia 2016. Tempo scaduto, l'Albania vince a Yerevan e conquista per la prima volta nella sua storia la fase finale di un europeo. È il trionfo di De Biasi, l'Albania può far festa. Ciao Pardo, come va? Molto bene, ma il nostro ospite addirittura meglio. Meglio, io non so, meglio. Se, non so se adesso tu dici che devo dargli del lei adesso o del voi? Che prima non glielo davi del lei? No, sì, prima gli davo del tu, è un amico, gli davo allora del tu. Allora continuiamo così, dai. Dottor Gianni De Biasi, eroe nazionale Garibaldi, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno Pierluigi. Ti devo dare del lei? Dimmelo, senza problemi. Ma adesso ti do invece una chicca che chiede per Luigi, chi è che per primo ha saputo che io sarei andato in Albania? Eravamo a Praga, Pierluigi, ti ricordi? O a Bratislava? Mi sembra a Praga, adesso non vorrei sbagliare, o a Bratislava. A me sembra Bratislava, Slova Bratislava, ma no, io questa cosa non l'ho detta a nessuno in questi giorni perché mi sembrava una cosa intima, no, non che ci fosse niente lì. Però eravamo lì a fare una partita e arrivò una telefonata, giusto? Esattamente. Noi parlammo e ti dissi subito, ma sono indeciso, qua, là, su e giù, poi alla fine. E io che ti ho detto, bye, vengo anch'io. Beh, per una volta ci hai visto giusto, Pardo. Per una volta ci hai visto esatto, giusto. Esatto, 50 metri quadri a Tirana, prendimeli pure per me. Visto, No, ma ci hanno già fatto statue equestri. Sì, hanno già fatto statue equestri. Beh, dottore ha preso la laurea l'altro giorno. Poi ha preso l'europeo. Poi ha preso la corona, no, Gianni De Biasi? Sì, equivalente alla massima onorificenza della Repubblica, e credo che non sia una cosa da poco. Sono molto orgoglioso di questo, chiaramente non l'ho presa io solo, ma l'hanno preso tutti i ragazzi, tutti coloro che hanno partecipato a questo sogno e l'hanno realizzato, questo sogno europeo, e credo che sia una cosa molto bella perché credo che sia un esempio importante per tanti ragazzi che possono pensare che il loro futuro non è segnato come per tanti altri, ma inseguendo magari con determinazione i propri sogni, ogni tanto questi si abbreccano. Senti Gianni, ma è il momento più bello della tua carriera? Credo di sì, dal punto di vista professionale credo che l'apice sia stato anche a Torino, quando con 60.000 al delle Alpi siamo andati in Serie A in una situazione molto particolare, sai, con il Torino che partiva dalla ricostruzione con squadra fatta in 15 giorni e proprio in condizioni di grandi difficoltà siamo riusciti a vincere. Questo sicuramente è stato un aspetto molto buono. Qui la cosa diversa è che questo progetto è partito praticamente 4 anni fa e siamo riusciti a dare continuità e a migliorarlo con il tempo e a cambiare un po' anche la mentalità di questi ragazzi, perché secondo me nella vita se ti accontenti non arrivi mai da nessuna parte. Il problema vero è quello di avere sempre fame di crescere tutti i giorni, cercare di mettersi alla prova per migliorarsi. E credo che questo sia stato un po' il segreto di Pulcinella, ma credo sia il segreto di ognuno di noi che vuole andare avanti nella vita. Pier, ti ho sentito prima, volevi chiedere qualcosa? Sì, no, io penso con tutto rispetto per il Torino e chiaramente quell'impresa lì delle Alpi. Torino ha una storia magnifica, leggendaria, quindi quella promozione lì certamente è da iscrivere, no, fra le grandi imprese dei momenti indimenticabili della vita. Qui credo che ci sia però qualcosa di diverso, cioè qui credo che ci sia veramente ancora la magia del calcio delle nazionali, che sappiamo è in ribasso, ne parlavamo qualche giorno fa, no, complessivamente, sì, poi ne parliamo ancora. Certi momenti addirittura come un fastidio durante le qualificazioni e durante le amichevoli. Io questo vorrei chiedere a Gianni, cioè al di là di tutto questa cosa qui non è soltanto un'impresa sportiva di una squadra, credo che dietro a questa impresa passi proprio l'orgoglio di un popolo, il fatto di sentirsi per la prima volta arrivato a un certo punto, è la magnifica eresia del calcio, no? Il calcio non conta niente ma conta infinitamente. Non è che gli albanesi adesso saranno più ricchi, a parte un paese che è cresciuto tanto negli ultimi anni, ma voglio dire, non cambia niente dal punto di vista pratico, ma cambia tutto dal punto di vista psicologico. Se lui sente questa fierezza di aver veramente fatto una cosa che va oltre l'aspetto solamente sportivo. Esatto, esatto Pier, è il pensiero che anch'io sono convinto che da un esempio come questo credo che il paese, lo diceva l'altro giorno Rama, sono stato insieme al primo ministro in una trasmissione, diceva anche noi politici dovremmo imparare a far squadra come i nostri ragazzi, perché si uniscono nel segno della nostra bandiera e riescono a dare il meglio di loro stessi. Se noi prendessimo esempio da loro, probabilmente anche le nostre decisioni, i nostri conflitti interni sarebbero più facilmente appianabili e potremmo lavorare veramente per un disegno, vorrei dirlo, superiore, per il popolo in maniera normale e non magari cercando solo di pensare al proprio campanile. Questo credo che sia il messaggio che arriva dalla nazionale al nostro governo, e lo dice il primo ministro, quindi io porto soltanto quello che è stata la sua testimonianza. Dottor Mister, ti chiedo altri 5 minuti dopo il traffico, stai con noi. Gianni De Biasi, Pierluigi ovviamente rimane. Tutti convocati. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta... Tutti convocati. Questo del ranking, sono situazioni particolari che mi sono rassegnato comunque ad accettare, ecco, anche se fatico, continuo a faticare, però... Noi iniziamo ad essere, a pensare agli europei e a tutti i rivali, ecco, quindi non solo al Belgio, ecco, a tutte le squadre che fino adesso si sono qualificate. Anche perché il ranking UEFA, il passaggio, lo scalare 5 posizioni nel ranking UEFA per Antonio Conte, che avete appena sentito, vuol dire altro bonus. Però tra le prime 24 d'Europa, e non necessariamente 24esima, c'è l'Albania di Gianni De Biasi, che è collegato con noi insieme a Pierluigi Pardo. Gianni, io avrei un sacco di curiosità da chiederti, ma scelgo. Una è questa: mi racconti sinteticamente i giorni, le ore tra il raddoppio della Serbia e il fischio finale in Armenia? sono stati momenti veramente, guarda, di una brutti, i più brutti momenti che ho vissuto nell'ultimo periodo della mia vita, perché veramente abbiamo buttato via, intanto anche con il Portogallo al 92esimo siamo riusciti a prendere gol su calcio d'angolo, che è una situazione assurda, con la Serbia al 90esimo e 12 secondi abbiamo preso il gol perché dovevamo andare a vincere la partita, perché la gente ci incitava ad andare avanti e io lì che mi sgolavo che eravamo sbilanciati e che alla fine quando ti manca le risorse fisiche, chi ha più qualità tecnica può farla da padrone, e purtroppo abbiamo pagato dazi pesanti. E poi sai, arrivi all'ultima, ti può venire il braccino del tennista e contro l'Armenia rischi di non vincere. Come hai gestito la situazione? È un lavoraccio dal punto di vista mentale più che fisico, perché dovevamo recuperare quelle certezze che ci avevano accompagnato fino alla quinta partita dove eravamo imbattuti, e credo che lavorando un po' sulla testa dei ragazzi e motivandoli in maniera giusta abbiamo fatto secondo me una buonissima partita contro l'Armenia. Eh sì, quella l'abbiamo vista tutti con le bandiere dell'Albania, tutta Italia. Come si dice difendiamo in albanese? Perché secondo me tu sei sgolato, ma lì il problema era... Come si dice? Non lo so, perché io faccio sempre i gesti dalla panchina, poi chiamo quello che ho lì vicino, che parla italiano, il mio esterno di sinistra parla perfettamente italiano, che stai basso, dia il 4 dietro di fermarsi, di non spingere in continuazione, perché se andiamo sempre con gli esterni rischiamo di sbilanciarsi. Se mi dici Ciuna, Aide, andiamo avanti, per me va bene. Che dietro non è che te l'ho imparato tanto. Senti Ciuna, Aide, ci racconti un po' dal punto di vista tecnico, da opinionista, qui da come... per tornare al tuo vecchio lavoro, che poi continui a fare, tra l'altro, molto bene. Ci racconti che squadra è questa Albania, dal punto di vista tecnico, in punti di forza, dov'è che potete ancora crescere? Diciamo che l'Albania, secondo me, dal punto di vista difensivo, contrariamente a quello che ho appena affermato, è una squadra che ha una buona organizzazione e che gli manca un po', secondo me, la razionalità in certi momenti, perché siamo molto generosi e quindi molto... pensati a dare più di quello che serve in certi momenti. Dobbiamo essere molto più riflessivi. A centrocampo abbiamo una buona fase di possesso, una buona distribuzione. Davanti probabilmente qualcosa ci manca in chiave realizzativa, perché creiamo abbastanza ma non concretizziamo per quanto costruiamo. Siamo discretamente bravi sulle situazioni perimetriva, sia da calcio d'angolo che da punizioni abbiamo fatto gol spesso e volentieri anche con situazioni manovrate, e questo credo che vada a merito dei ragazzi che lavorano bene quel poco tempo che noi allenatori abbiamo a disposizione. Senti Gianni, volevo sottoporre un'altra considerazione che avevamo provato a sviluppare ieri, ma l'ho tenuto in serbo anche per te oggi, che è quella della nascita di una nuova Europa calcistica, non episodica come la vittoria della Danimarca tanti anni fa, la vittoria della Grecia, che furono dei lampi nel buio. Io ho la sensazione che, faccio i nomi, Belgio e Polonia, Albania e Irlanda, magari tutte e due le nazionali irlandesi, l'Islanda, il Galles... La sensazione che ho rispetto a queste squadre è quella di movimenti in crescita costante, bel calcio, bravi interpreti, forgiati principalmente all'estero, cioè in campionati non locali, e una grande continuità di crescita e risultati, mentre la vecchia Europa, sappiamo bene, Italia, Francia, Spagna in fase di rifondazione, ristrutturazione, rimpasto, rinascita, mettetela come volete. L'Inghilterra eterna incompiuta, l'Olanda nella polvere praticamente fuori dagli europei, la Germania che certo non abbiamo visto brillare nelle fasi di qualificazione, anche se resta tra queste la più credibile. È solo una mia sensazione o è qualcosa di reale? No, c'è una grande realtà nelle tue parole. Credo che il Belgio sia una squadra che ha dei talenti, secondo me, di grandissimo livello. È chiaro che sfruttano il fatto che hanno avuto una grande immigrazione e per loro è stata una risorsa dal punto di vista calcistico. Lo stesso dicasi per la Polonia, che pur non avendo questo fenomeno però ha fatto esperienze con i giocatori che giocano all'estero e hanno giocatori di ottimo livello. L'Islanda a me piace tantissimo, l'ho incontrata ahimè nella qualificazione mondiale scorsa e ci ha battuto sia in casa che fuori. Sono giocatori che giocano tutti fuori ovviamente dall'Islanda, giocano tra l'Olanda e l'Inghilterra e sono giocatori di qualità. Io credo che le cose non avvengano per caso, però credo che il fattore mentalità incida tantissimo. Queste sono realtà in ascesa e che hanno tutto da guadagnare, mentre altre realtà che hanno già ormai un loro territorio, un loro status acquisito, probabilmente ci rimettono di più in termini di pressione quando arrivano a queste manifestazioni. Sono convinto anch'io che ci potrebbe essere una sorpresa nel campionato europeo, fermo restando che Germania, Spagna, Italia e molto Belgio, che voi l'avete messa tra le sorprese, li avete messa tra le favorite, e credo che tra queste potrebbe uscire la vincenza dell'europeo del 2016. Lascio l'ultima domanda a Pardo. Chi vince il campionato? Chi vince il campionato? Quello italiano. Non lo so perché il campionato albanese, bene, bene, no, certo. Non lo so, mi piacerebbe per il caso della vincita del Napoli, perché faccio il tifo molto per Sarri, perché sono molto vicino a quegli allenatori che insegnano il calcio e che non fanno solo i gestori di uomini. Quindi votiamo Napoli, voti Napoli come vota Napoli Pardo, peraltro, Napoli, dichiaratamente. Sì, come la pubblicità. Come? La pubblicità, voglio fare. Votiamo Napoli, sì, che è la pubblicità del Piero, no? Sì, sì, sì, sì, sì, adesso, sì, sì, sì. Mi pare che fosse. Gianni, grazie. Grazie Gianni, grazie, complimenti ancora. Ciao. Complimenti ciao. Ancora a quando finisci di fare i caroselli, vieni qui a trovare. Vabbè. Beh, dureranno a lungo, ho l'impressione, Pierluigi. Dureranno a lungo. Beh, una cosa meravigliosa che non. Allora. Sì, prego. No, ti ricordi cosa ti ho detto ieri a proposito della missione di Conte invece? Cioè, De Biasi ha votato l'Italia tra le quattro favorite dei mondiali insieme a Germania. Cosa ha detto? Germania, Belgio e Spagna. Queste sono le quattro top di Gianni De Biasi per gli europei a venire. Tavecchio ha detto una cosa invece a proposito della missione di Conte, che è un po' la stessa, questa qui. L'obiettivo minimo deve essere i quarti. È quattro, bisogna. Quando sei quattro, è quattro. No, è quarto, è finale, sì. È quattro. Quando sei in quattro, dopo chi vive, la semifinale è la finale, però. Ma i quattro bisogna arrivarci, vero? O no? Quindi non ai quarti, ma tra le prime quattro. Il sì, che vuol dire? Posso, il che vuol dire semifinale? Lo dico con affetto, ancora una volta emerge il fatto che diciamo, il presidente non ha fra le sue qualità migliori quella dialettica. Ma questa cosa non è un'accusa, proprio è anzi, da un certo punto di vista, qualcosa secondo me che ci fa rivedere anche tutta una serie di polemiche, di critiche al di là dell'assoluta drammatica battuta su Pogba. Però voglio dirti proprio, diciamo, non è il suo, è un uomo più del fare che del comunicare, sicuramente, quindi insomma anche da questo piccolo. Da questa piccola gaffe, no? Differenza tra quarti e le prime quattro, diciamo che si conosce abbastanza bene. E sulla sostanza sicuramente, insomma. Ma sai, l'europeo come i mondiali sono competizioni, non è un campionato, certo, di 38 giornate, sono competizioni dove devi fare un pezzetto alla volta e poi se dove la tutto si brucia in un attimo sullo. Dove certo, tutto si brucia, certo, in un attimo, si brucia, però, in una partita, si brucia in 10 minuti. Mi sento sereno, nel senso che penso che, mamma mia, qua passano autobus. Dico, mi sento sereno, però penso che quelle partite lì le preparerà con la qualità, con la forza, la tenacia, la personalità, lo scrupolo, l'attenzione totale. Quindi da questo punto di vista mi sento garantito, ma questa non è ovviamente un'equazione per forza positiva, se non è che si porterà per forza al successo. Ma hai sentito la risposta di Conte, che è questa? Sì. Ho anche detto però che in maniera molto fredda e molto analitica che sicuramente non partiamo con i favori del pronostico, perché sappiamo benissimo il movimento, quello che è successo, quello che stiamo facendo e stiamo lavorando per cercare di tornare ai vertici. Quindi ripeto, io penso che non c'è né un obiettivo minimo né un obiettivo massimo. Quindi Tavecchio spinge e Conte si prova a fare un po' di retromarcia dicendo, ma aspetta un attimo, perché non c'è un obiettivo massimo, un obiettivo minimo. È il gioco delle parti, dai. Ma questo è evidente. È tutto precampionato. Quello che ha fatto Conte è buono, ma da solo non basta. Ci giocheremo tutto da maggio in poi. Sai come si diceva nei cartoni animati? That's all folks. Esatto. Ti ricordi? Esatto. Allora chiediamo anche ai nostri ascoltatori obiettivo massimo, obiettivo minimo o quel che volete. 800 24 00 24, borsa, torniamo subito. Bene, molto bene. Il trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. State ascoltando un programma offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Certe volte gli ascoltatori hanno poca pazienza. Ci accusano, ma non avete detto ancora una parola sulle inchieste, Infront, l'asta dei diritti del calcio. Eccoci qua. Siamo Pierluigi Pardo collegato, Marco Berinazzo Sole 24 ore. E anzi, vi anticipo che oggi prima puntata, domani seconda, sull'argomento. Sarete contenti così? Ciao Marco. Eccoci qua. Mi fai un quadro della situazione? Questa indagine a Procura di Milano su Infront, su questa asta dei diritti televisivi, su Preziosi, Lotito e Paparesti indagati. Cosa succede? Fammi allora, un quadro della situazione. Arrestano un tizio che lavora per una società diciamo che si occupa di gestione di patrimoni. Sì. Presunti evasori che portano i soldi dove gli pare. Questo tizio ha tra i propri clienti, avrebbe, anzi, Infront lo smentisce, ma emerge che a un certo punto ci sarebbe anche Infront, ci sarebbe Mr. B. Touchable tra i clienti di questa, sì, fiscalista, no? Un fiscalista, Nicola Baroni. Scatta questa indagine della procura che si allarga ad altri due filoni. Quindi a un certo punto dimentichiamoci il fiscalista e la società. Okay. E cosa succede? Che sul primo filone, e non è ben chiaro ora il collegamento tra il primo filone e il secondo, se ne innesta un altro, quello della turbativa d'asta. In pratica si scopre dalle perquisizioni che vengono fatte nei giorni scorsi a casa degli indagati e in alcune società come Bari e Genova, piuttosto che nella Lega, piuttosto che ad Infront, si scopre che la Procura di Milano sospetta che quando nel giugno 2014 è stato fatto l'accordo per i diritti TV 2015-18 ci sarebbe stato una sorta di patto tra Infront, quindi Marco Bogarelli, e i vertici, sì, di Mediaset, per determinare il bando in maniera tale che fosse favorevole a Mediaset. Da qui l'accusa di turbativa d'asta, da qui l'accusa, diciamo, di aver manipolato la concorrenza e a catena le perquisizioni. È un'indagine che va avanti con l'acquisizione dei documenti, smartphone, abbiamo letto, WhatsApp, qualsiasi cosa, sì, che potesse avvalorare questa tesi. Terzo filone che si innesta sul secondo, e spero non vi stiate perdendo perché è difficile da seguire. Mi sto perdendo tra i filoni. L'altro filone che si lega al primo è che da Infront sarebbero partite delle somme attraverso questa tax and finance, sì, per andare a supportare alcune società in difficoltà economiche, Genova, Bari, e Parma, scusami, Bari, Bari 500.000 euro, per il Genova si parla di 15 milioni di euro in tre tranche, per andare a supportare queste società che avevano difficoltà ad iscriversi, sì, ma non, come si è detto, per rispettare i parametri patrimoniali della Covisoc, perché di parametri patrimoniali dal 2006-2007 non ce ne sono più, sono stati aboliti, ora reintrodotti dalla FIGC a partire dai prossimi anni, tant'è vero che abbiamo avuto il caso Parma. Bastava sostanzialmente pagare stipendi e IRPEF al marzo precedente, quindi probabilmente queste somme sono servite a Bari e Genova per pagare quegli ingaggi e non incorrere in penalizzazioni sul campionato successivo. Sì. Queste sono, diciamo, sono i tre filoni che abbiamo visto si legano con un po' a fatica. Questi sono i filoni di indagine emersi finora, su cui si potrebbe dire tanto e proveremo a dire tanto anche sul Sole 24 Ore domani, no, probabilmente sul Sole 24 Ore, insomma sul mio blog, ora vedremo dove riuscire a collocare. Qui di sicuro, sul mio blog di sicuro. Diventa una rockstar ormai, sì, bisogna un attimo gestire gli spazi. Vuoi capire qualcosa di più, Pierluigi? Vuoi chiedere qualcosa di più a Marco Berinazzo, che ci ha disegnato la cornice del quadro? Illuminaci, facci sognare. No, ci sono appunto questi tre filoni. Io immagino che ci sia ben altro, perché questo è quello che è emerso finora, è dai primi atti, cioè quando si va a perquisire si consegna appunto l'ordine del PM vistato dal GIP che ti fa che ti dà autorizzazione, e c'è una parte di indizi che giustificano quel tipo di atto giudiziario, ma non viene svelato tutto, ovviamente. Certo. Quindi immagino che ci sia altro. Però su quello che è emerso, diciamo, a me non piace, come dire, star dietro allo scandalo, al giornalismo scandalistico, che mi rendo conto fa più presa, deve fare audience o meno. Mi piace capire e ragionare. Poi magari non è tanto popolare, però non me ne frega niente, io faccio così. Allora, si parla per esempio di turbativa d'asta, sì, no? Quindi accordo tra Mediaset e in front per fregare Sky. Sì. Ok. Nel questa primavera abbiamo avuto un'inchiesta, è partita questa inchiesta dell'antitrust un anno dopo la segnazione, finirà tra, ci hanno detto, al 30 aprile 2016, due anni ci mette l'antitrust, in cui l'ipotesi qual è? Che invece Sky e Mediaset si siano messi d'accordo violando la concorrenza, quindi facendo un cartello, quindi si mettessero d'accordo tra antitrust e procura di Milano su chi si è messo d'accordo con chi. D'altro canto, turbativa d'asta il fatto che l'advisor, non so che l'accettaria mi viene da ridere, no, l'advisor come dire, collabori con la Lega nel scrivere il bando, cioè fa parte del lavoro dell'advisor, non so come dirlo, cioè, ora io non vorrei passare per chi vada a difendere Infront, Galliani, Lotito, cioè, no, stiamo solo provando a capire. Cioè, non me ne frega niente di difendere, no, non avvocati, insomma. Però qui bisogna impegnarsi perché già sono un po' libero di dire. A me sembra che nelle ore concitate in cui non si riusciva a trovare una quadra, un accordo, l'antitrust avesse detto in qualche modo, assolutamente, non mi ricordo la cosa tecnica, mettere allora, d'accordo, come si dice? No, è praticamente successo questo, che questo lo spieghiamo insomma nel dettaglio perché si è arrivati all'esito di un momento in cui sembrava tutto bloccato, carte bollate, diffide contro diffide, e a un certo punto si è trovato l'accordo attraverso una sublicenza da Mediaset a Sky. Mediaset ha girato a Sky, diciamo, il pacchetto meno pregiato delle 12 squadre meno pregiate, in cambio ha avuto il pacchetto con le 8 squadre. Questo pacchetto delle 8 squadre ci ha pagato 100 milioni in più rispetto a quanto pagava prima Mediaset, ma ha fatto sì che dentro questo pacchetto ci fossero tutte le squadre big, quindi anche Roma, Lazio e Fiorentina, e probabilmente sarebbero finito nel pacchetto meno pregiato. Quindi questo l'ha fatto attraverso una sublicenza, quindi formalmente all'asta Mediaset ha preso due pacchetti e Sky 1. Poi dopo c'è stata la sublicenza di Mediaset a Sky di questi, quindi è Mediaset di questi pacchetti. Che ha venduto a Sky un pacchetto. Esattamente, l'indagine dell'antitrust probabilmente è su questo accordo, ma c'è un piccolo particolare che per la legge Melandri la sublicenza può essere ammessa solo se l'antitrust dà l'ok, e c'è stato l'ok dell'antitrust e della Gcom. Via preventiva c'è stato, dopodiché l'antitrust ha aperto un'indagine perché evidentemente ritiene di aver scoperto altro, ci sono le audizioni in queste settimane, ci ha detto l'antitrust, ripeto, che si chiuderà nel 2016, due anni per fare un'inchiesta, arriverà alla fine, cioè, la conclusione, l'antitrust ha aperto un'inchiesta su se stessa? Si sta dicendo che praticamente la procura e l'antitrust potrebbero arrivare a delle conclusioni completamente diverse? Io sì, sulla base di quello che è emerso finora dagli atti. E quindi chi vince? Non lo so, vincerà la procura perché è magistratura, l'antitrust però quando indaga su violazione della concorrenza ha poteri. L'antitrust ha aperto un'indagine interna, ha aperto un'inchiesta su se stessa per questo parere positivo che è stato dato. Il parere è stato dato, la sublicenza è stata fatta, dopodiché quindi l'antitrust ritiene che però diciamo si sia svolto poi il tutto violando le regole della concorrenza, ce lo devono spiegare, e sta facendo un'indagine, ripeto, sul presupposto di un accordo Sky Mediaset. L'indagine della procura, per quanto emerso, diciamo presuppone, ha come oggetto un accordo Infront Mediaset ai danni di Sky. Ora chiaramente qui non stiamo noi toccando il filone dei baroni, dei fondi neri, i passaggi, perché chiaramente non abbiamo i poteri per andare a indagare, e valutiamo quelli che sono gli atti. Al momento la situazione è questa, vediamo gli sviluppi, li attendiamo con enorme curiosità. Sì, l'unico sviluppo che abbiamo è questo, una dichiarazione di Infront di oggi. Confermiamo che venerdì scorso, 9 ottobre, la Procura di Milano ha aperto un'indagine a carico di Marco Bogarelli, Giuseppe Ciocchetti e Andrea Locatelli, manager di Infront Italy, relativa a una presunta contribuzione per inappropriate pratiche finanziarie nei confronti di due squadre italiane di calcio per una presunta turbativa del processo amministrativo dell'asta di assegnazione dei diritti TV della Lega Serie A per il periodo 15-18. Infront in qualità di azienda non è ufficialmente sotto inchiesta per le suddette questioni. Infront e il suo management locale stanno collaborando con le autorità al fine di dimostrare la correttezza dell'operato dei manager della società. Infront non ha e non ha mai intrattenuto alcun rapporto con la società svizzera di consulenza Tax & Finance e o con Andrea Baroni. Questa è l'ultima notizia arrivata. Questo è il primo capitolo della vicenda, domani lo riapprofondiamo. Parliamo anche di questa indagine. Ti ricordi un attimo questo accordo qui era stato firmato da tutte le società, qualcuno si era il voto è stato all'unanimità, si è astenuta soltanto la Fiorentina, il voto che diciamo ha ratificato l'accordo. Si decide che questa cosa qui è stata firmata da Sky, da Mediaset, da 19 società su 20, c'erano anche le retrocesse, erano 22 società su 23. Tra l'altro questo mi sembra, cioè, è chiaro che noi magistrati fanno il loro lavoro e sono ovviamente meritano rispetto e supporto, perché il paese senza magistrati è un paese dove si dubita dei magistrati, è chiaro, sì. Che è un paese che non può andare sulla barca, quindi massimo rispetto e massimo supporto. Dal punto di vista nostro, di osservatori, a me sembra che l'accordo 2015-2018 sia stato un punto di compromesso che ha dato un sacco di soldi al calcio italiano, consentendo al calcio italiano di essere il secondo campionato più pagato d'Europa. Rispetto a 3 anni prima, un contratto dove Mediaset perde delle squadre e paga di più, Sky mantiene il suo prodotto e paga di meno. Questa è cronaca. E poi a me risulta anche che Infront sia la stessa che poi vende i diritti della Serie B a Sky, che produce logisticamente X Factor, che produce dei programmi della Serie. Cioè, a me questa roba qui mi sembra strana, no? Cioè, sì. A me sembra un'azienda e lavora con tutti, e sono in grande amicizia. No, poi... ma guarda, Pierluigi, qui si tratta soltanto per riprendere il titolo di una storica rubrica del compianto grandissimo Candido Cannavò, Fatemi capire. E qui il senso è Fatemi capire. Però voglio dire, se l'antitrust e la procura fanno, con tutto rispetto per tutti e pure, poi quel bene avevamo papà, come ci sta spiegando Belinazzo, fanno due inchieste con due aspetti e con due filoni di indagine, quindi con degli indagati completamente diversi, veramente fateci capire. Ma appunto, fateci capire. Stiamo provando a capire, così come capiremo e... Mi sa che dobbiamo chiudere anche questa indagine nei confronti di Galliani per concorso in bancarotta fraudolenta, sì, per l'acquisto di Paletta dal Parma, sotto costo Paletta, 2,5 milioni di euro, mi sembra. Anche qui fateci capire, lo facciamo domani cerchiamo di capire. Qui. Grazie Marco Bellinazzo per il momento. 800 24 00 24, time out, mi dice Giorgio De Luca, sì, traffico, battaglia, andiamo da Nando Sandito. Nando, tutti convocati. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Tutti convocati. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, vänaste land upp på jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna. Dopo questa vicenda, onestamente, da mal di testa che divide moltissimo gli ascoltatori in maniera anche abbastanza violenta dal punto di vista verbale, perché vorrebbero tutti si dicesse: ah, questo è un mascalzone, quello è innocente, questo è un mascalzone. Ma torniamo sulla vicenda nella maniera più chiara ed esplicativa possibile, e ovviamente come sempre senza peli sulla lingua. Però finalmente, dopo questo, un po' di musica. Chi è che canta, Pardo? Non lo sai? Non ho sentito. Chi è? Aspetta, alzatemelo un attimo ancora. Adesso me la rimette, non lo so. Datemi Shazam. Chi è che canta? No, Shazam non vale, dai, su. Devi conoscerlo questo, eh. Non questa, non la signorina. La signorina ha una bella voce, non la conosco neanche io, quell'altro. È un brano straordinario. Tra l'altro canta nessuno, certo. Aspetta. Non ti sei aspetta un attimo, perché voglio fartelo sentire ancora. Aspetta un attimo, solo un attimo. Du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig. Dai, non può non riconoscerlo, Pierluigi. Grandissimo. Dillo tu, però, ti prego, l'ho riconosciuto. Ma dillo. È Zlatan Ibrahimovic. Ecco. Zlatan Ibrahimovic, che no, che canta questa versione remixata, molto attuale, molto moderna, molto figa dell'inno svedese, che ha avuto 3 milioni di visualizzazioni in patria e vittoria del disco d'oro, altro che il pallone d'oro. Quasi una visualizzazione all'abitante, il fatto che non era visualizzata persone più di una volta e persone dall'estero, però insomma controlla quante, cerca su Google quanti abitanti ha la Svezia, secondo me saremo uno su due, secondo me la Svezia avrà secondo me 10 milioni di abitanti. Altro che pallone d'oro, scarpa d'oro, qui Ibra vince anche il disco d'oro, gli manca disco giusto d'oro. Solo la Champions League, ecco, gli manca quella cosa lì, ecco, io credo che lui baratterebbe volentieri il disco d'oro per la Champions League, anche perché tu sai io sono, però un futuro assicurato, garantito, ha un futuro assicurato, ma è sicuramente una, cioè Ibra che non vince la Champions League è una di quelle cose che c'è anche una componente secondo me irrazionale e figa, perché il giocatore l'avrebbe meritata. Poi si può discutere sul fatto che l'anno in cui era andato per vincerla con il Barcellona, lasciando fra l'altro l'Inter, che quell'anno lì lo performa in maniera straordinaria, quell'anno lì certamente non si è amalgamato molto bene. No, certo. Senti, ma quando diventi presidente dell'UEFA al posto di Platini caduto in disgrazia, istituisci la Champions League honoris causa che gliela consegniamo? Sì, premia la carriera, dai palloni d'oro, pensa a Maldini, Buffon fuori dalla lista, dai. No, vabbè, ma ormai sono buffonate, non ci crediamo neanche più a queste cose, sono pagliacciate belle buone, ormai da anni non ci crediamo più. Sentiamo Andrea dalla provincia di Treviso prima di salutarti. Andrea, buongiorno. Vai. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, vuole cantare l'inno svedese? Ciao Andrea. non ho imparato bene le parole ancora. Le sto studiando anch'io, Però si intitola Du Gamla Du Fria. Ah sì, molto simile al dialetto veneto. Du Gamla Du Fria. Dopo lo spritz, dopo un paio di spritz, secondo me sei in grado di cantarlo. Dica Andrea, dica. Allora, volevo chiedere un po' di cose. Allora, prima volevo far notare una cosa. Ho sentito prima Zenta che diceva a De Biasi: ho un serbo per lei. E l'allenatore d'Albania dire un serbo non è il massimo. Scusi la figura, intanto. Sì, pronto? Pronto, vabbè, eccoci. Vabbè, adesso andiamo avanti, però è bella. Vabbè, bella, poi? Però andiamo. Poi. Volevo dire De Biasi, perché volevo proprio parlare di De Biasi. Io l'ho conosciuto quando aveva fatto il ritiro a Sappada con il Torino. Sì. Secondo me è stato molto sfortunato ad aver avuto come... ad aver... essere incappato in... Cairo nella prima fase della presidenza, cioè quando pensavo di essere onnipotente. Cairo in questo momento invece è, secondo me, è un altro presidente. E infatti i risultati del Torino si vedono. Volevo sapere da voi cosa ne pensate. Ma guarda, se si parla con De Biasi, il suo grande rimpianto invece è la stagione così che ha avuto con l'Udinese. Questo è stato davvero il suo grande rimpianto. Devo chiudere, Pier. Su Cairo abbiamo detto mille volte. Abbiamo detto presidente, ancora una volta sottolineo, perché poi spesso è facile accodarsi, e invece la grandezza di Cairo è nata nelle scelte impopolari che ha fatto, che io probabilmente non avrei fatto, e probabilmente se parliamo a registrazioni l'avrò anche criticato in quel periodo lì, quando per esempio questo non si è mobile. Ma atto che quelle scelte impopolari sono state poi la chiave di quello che ha costruito dopo. Pier, ci sentiamo domani. Chiaro, domani alle 2 noi ci fermiamo per il GR e torniamo dopo. Finisce qua, senza recupero il primo tempo. Gran spettacolo. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da... Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. State ascoltando un programma offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Si ricomincia! Tutti convocati. Allora, io so che a tutti gli ascoltatori telefonanti 800240024, numero verde, interessano molto più temi tipo Conte, non Conte, Del Piero, Cittadina Nazionale, come abbiamo detto ieri, o magari Vialli, o magari qualcun altro, magari di nuovo Conte, e però tutti quei soldi. Lo so che vi interessano di più questi temi, però siamo qua anche per parlare di altro, come abbiamo fatto con Gianni De Biasi, eroe albanese. In questo momento, per farci spiegare da Marco Beninazzo com'è tutto questo pasticcio dell'indagine della Procura di Milano sui diritti televisivi, e domani ritorniamo sull'argomento. Siamo qui per fare tutto questo, ma anche per parlare con voi di quello che volete, ragazzi. 800240024, lo facciamo subito con Salvatore, la provincia di Monza. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, mi dica. Sentite? Sì, la sento. È che io sento poco, comunque. Volevo parlare del fatto, ho sentito prima la canzone di Ibrahimovic, state parlando di Ibrahimovic che l'inno albanese non la vince, non l'ha mai vinta. Ah. E volevo dirvi che la cosa più sconcertante, più imbarazzante è che un giocatore più forte italiano di tutti i tempi non abbia mai giocato una partita di Champions League. Cioè, questo è clamoroso, Sarebbe? Sarebbe quel giocatorino che si chiama Roberto Baggio, che non ha mai fatto una partita, ha fatto solo uno spareggio Champions col Parma, tra cui ha segnato due gol fantastici. Cosa possiamo dire? Sono i casi della vita? Anche di un calciatore? Possiamo dire questo, Salvatore? Non lo so, mi dica lei. Cioè io non avrei un'opinione particolare su questo punto. Possiamo dire che sono i casi della vita? Sì, è stato un po' sfortunato il ragazzo, C'è certi scarponi che giocano in Champions e si lamentano pure con atteggiamenti scandalosi, poi il miglior giocatore italiano di tutti i tempi non ha mai calcato il campo di gioco in Champions League. Ripeto, non ho un'opinione in proposito, possiamo solo dire che sono i casi della vita. In compenso ha calcato i campi mondiali, e credo che questo sia... forse ma ancora più grande rispetto a quello all'onore di calcare i campi di Champions League, di sentire il famoso inno, la musichetta e tutte queste balle qui su cui si insiste moltissimo. Roberto Baggio lo ricordiamo, come dice lei dice più grande, io dico uno dei più grandi giocatori della storia del calcio italiano, che ha avuto questa parabola, che non l'ha mai portato a calcare i campi di Champions League. Enzo Bucchioni, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio, ben ritrovati, ciao. Ciao Enzo, casi della vita, che vuoi fare? Ma Baggio. Sì, assolutamente casi della vita, tanto Baggio resta Baggio. Baggio resta, cioè, Baggio, restano quei due gol alla Nigeria che ci proiettarono verso la finale mondiale, restano un sacco di altre cose nella letteratura di Baggio, no? Assolutamente, letteratura calcistica e anche umana, perché secondo me resta un grande personaggio anche fuori dal calcio, anche con le sue qualità proprio umane, la sua semplicità, la sua essere in qualche modo antipersonaggio, quindi tutto, secondo me sono dei valori che si è portato dietro Baggio e che oggi fatichiamo a ritrovare nei calciatori iperpagati, iperpubblicizzati. Sì. Ma io ho un pezzo di cuore dedicato a Baggio, cuore calcistico, perché lo conosco da quando era bambino, arrivò a Firenze infortunato, già lì segnato da un piccolo dramma sportivo. Allora dicevano non avrebbe più giocato a calcio. Sì, mi ricordo. Poi, bene. La sua grande volontà, in ogni casa dove è stato, in ogni città dove è stato, si portava presso una palestra per lavorare dopo la sera, dopo cena, in qualsiasi momento, per rafforzare le sue ginocchia, che altrimenti l'avrebbero davvero costretto a lasciare l'attività ancora prima di cominciarla. Invece questa grande volontà, che non abbiamo mai sottolineato, perché Baggio le qualità gliela date la natura, però lui l'ha coltivata con questa straordinaria volontà che l'ha portato così in alto. Sì, si è distrutto le ginocchia nel Vicenza quando era un bambino ed era già stato acquistato dalla Fiorentina per la cronaca. Esatto. Da quando ho iniziato a fare l'allenatore ho sempre invidiato il tecnico della nazionale italiana che partecipava alle competizioni dell'Europeo e Mondiale, perché in quel momento senti l'Italia che soffia e ti spinge. Rinnovo del contratto, mai dire mai, lo dice Antonio Conte, l'ha detto oggi Antonio Conte al TG1. Ieri abbiamo provato a parlare di quell'idea che è venuta a Mario Sconcerti, che ci ha divisi per la verità, di un eventuale dopo Conte magari affidato a Del Piero, o magari affidato a Baggio, affidato ad uno dei senatori di quell'epoca lì. Io continuo a pensare che l'Italia abbia bisogno di un allenatore. Sì, è anch'io penso che l'Italia abbia bisogno di un allenatore. Io pensavo a Ancelotti prima che trovasse una panchina importante, ora pareva dal Bayern di Monaco a sostituire Guardiola. Forse il suo obiettivo è quello di andare a vincere anche lo scudetto anche in Germania, visto che l'ha vinto dappertutto. Ma lì non è difficilissimo, forse ce la facciamo anche noi in Germania, forse col Bayern ce la facciamo anche noi. Io faccio il direttore tecnico, tu l'allenatore o viceversa, andiamo lì e vediamo che succede, lo vinciamo anche noi, hai ragione. Sì, io sono per l'allenatore anche perché sono suggestioni, no, questi nomi, ma poi la panchina nazionale è sempre una panchina complicata, devi rapportarti con mille tifoserie, con le problematiche che ci sono, vediamo anche Conte in questi giorni, e travolto addirittura da un pronostico del suo presidente che dice deve arrivare in semifinale, ma dove sta scritto? Ci sono almeno 6 o 7 squadre in questo momento e sto basso, più forte dell'Italia, per quale motivo deve arrivare in semifinale? Io fossi stato presidente avrei detto, ma ci sono 10 squadre più forti, vediamo quello che succede, poi se arrivi in semifinale te la giochi, ora è il contrario, cioè se non arrivi in semifinale ma sai, uno può telefonare, ma Enzo, uno può telefonare e dire ma come, con tutti i soldi che gli dà, perché questo è quello che succede, no? Questo è quello che succede. Questa è l'opinione comune, popolare comune, corrente. Ma tanto Conte se ne andrà, per quello che so io, Conte se ne andrà. Io non lo so, però questa è anche la mia sensazione, ma non solo la mia, ecco. Conte se ne andrà, no, perché lui ha bisogno di sentire in mano il battito della squadra, non c'è niente da fare. È un ruolo che non ama fino in fondo, questa è la verità. No, certo, ma lui ha già deciso da tempo, avesse potuto l'anno scorso, poi ricorderete tutte le polemiche, forse se ne sarebbe già andato a metà mandato, invece ha ritrovato la carica, vuole provare a vincere questo europeo, perché dei segnali importanti io l'ho colti nell'ultima partita in Azerbaijan, cioè quella rabbia che lui ha dato alla Juventus, quella voglia di lottare, quell'intensità, io l'ho ritrovata, è la prima partita, devo dire, che ho visto una nazionale così contiana, proprio nell'atteggiamento, una nazionale che ha tenuto bene il campo, quindi io credo che farà bene poi alla fine, proprio per questa sua capacità di motivare i giocatori, il mese decisivo quando li terrà sotto pressione sarà importante, quindi lui ha il sogno di vincere questo europeo, di fare come Lippi, il suo maestro Lippi. Arrivederci e grazie, se non dovesse andare così arrivederci e grazie ugualmente. Io continuo a pensare che l'avventura italiana la nazionale italiana di Conte, ma così come la storia di un qualunque CT non possa essere valutata prescindendo da una grande manifestazione, cioè è impossibile dire cosa Conte e quanto Conte abbia fatto per la nazionale in questo momento, perché ha fatto qualificandosi il minimo sindacale, quindi Conte CT secondo me è ingiudicabile. Enzo, rispondiamo insieme a un paio di ascoltatori, cosa dici? Molto volentieri. Dario, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. A lei, dica. Una domanda, una considerazione sull'onda lì di l'allenatore che ha vinto in Albania. Io mi chiedo, da milanista, sì, pretendiamo che tutti quelli che arrivano nelle nostre squadre debbano vincere dalla mattina alla sera, praticamente bisognerebbe consegnare 10 scudetti all'anno. Sì. Ma non possiamo dargli una volta un po' di tempo a sti allenatori perché facciano una squadra che duri nel tempo? Domanda stupida, così. No, non è stupida per niente, è anzi uno dei quesiti più annosi della millenaria storia del pallone. Ad esempio, a Ventura si è dato tempo e ha costruito una squadra che è un gioiello, il Torino, che funziona a prescindere quasi dagli interpreti. Certo, possiamo richiamare Ferguson, possiamo fare mille discorsi di questo tipo, la verità è che c'è fretta. Ma c'è fretta, e questa è la differenza che fa un buon allenatore da un grande allenatore, cioè il gestire la pressione, sapere che in certe piazze non basta essere bravi, non basta gestire il gruppo, non basta essere al calcio, c'è da allenare anche tutto il contorno. Cioè, allenare tifosi, giornalisti, tutto, come diceva Pesaola, tutti. È tutto fa parte del gioco, è come i giocatori che in una squadra X giocano benissimo, vanno nella squadra più importante e non rendono. È inevitabile, perché non basta avere piedi buoni, ci vuole il cervello, ci vuole la capacità di gestire tutto quello che è uguale la carriera dell'allenatore. E guardate Mihajlovic, cosa succede a Genova, era un fenomeno assoluto, perché a Genova lavoravi con tranquillità, con pressioni relative, parlavi di calcio soltanto la domenica quando le grandi televisioni piombano a Genova e ti fanno le domande durante la settimana, poi così è successo a De Piase. In Albania gli hanno dato tutto il tempo che hanno voluto, io credo che nei giornali albanesi, non lo so, ma punti di tirò una castroneria, probabilmente della Nazionale se ne parlerà poco, ma non so quanti giornalisti ci saranno al seguito, i tifosi soltanto quando gioca. Qui continuiamo a parlare, stiamo discutendo ora del contratto di, io credo che del contratto di De Biasi in Albania non sappia niente nessuno, quindi ha lavorato, ha mostrato tutte le sue doti che aveva già fatto vedere in Italia, quindi è questo il segreto, che c'è da fare, sono, come diceva quello, più in alto cadi, più in alto sale, più facilità hai di cadere. Sì, più ti fai male, più ti fai male, se cadi. Senti Enzo, c'è Alessandro che mi chiede via SMS, mi chiede di chiederti se hai qualche sassolino da toglierti nei confronti dei tifosi viola che, lui scrive, ti criticano. Com'è sta storia? No, guarda, io non mi tolgo nessun sassolino, perché io ho sempre fatto il mio mestiere sincerità, scrivo quello che so e quello che penso. Io quest'estate ho semplicemente detto che la Fiorentina aveva fatto una campagna acquisti importante, io ho dato anche un voto 6,5, sì. Se avessi conosciuto Kalinic di più, perché lo conoscevo ma non lo conoscevo a fondo, avrei dato addirittura 7, perché la Fiorentina è andata a colmare dei vuoti che aveva, è andato a prendere i giocatori che aveva sotto osservazione da tanto tempo, andandoli a pagare poco rispetto al loro valore, cioè quello che devono fare le squadre di media alta classifica. Ho citato Kalinic, ma ti parlerò anche di Astori, che è un ottimo giocatore nel giro della nazionale, e a Firenze sembrava avessero preso uno scarto perché non l'aveva preso il Napoli, non si era accordato con il Napoli, cioè tutta una serie di situazioni che mi hanno portato a dire in assoluta autonomia e onestà intellettuale che secondo me la Fiorentina aveva fatto un'ottima campagna acquisti. Poi avete visto cosa è successo a Firenze, striscioni, contestazione della Valle, anche a me, ma voglio dire, chi se ne frega, fa parte del gioco. Poi la Fiorentina, guarda caso, ha fatto bene, ma io non ho nessun sassolino attorno che poteva anche fare male, è una mia visione del calcio, forse dettata dall'esperienza, forse dettata dalla conoscenza, sai, anche molti colleghi sono un po' istintivi, no? Oggi io faccio parte di un'altra scuola perché non sono più un bambino. Quindi valuto le cose, vado a vedere gli allenamenti, mi informo. Come valuti questa Fiorentina? È una squadra da scudetto? Ora lo scudetto non ci allarghiamo, io dico che quest'estate ha fatto un buon lavoro, è un'ottima squadra, viene da tre quarti posti, quindi c'è una base sulla quale Paolo Sosa, che è un ottimo tecnico, io conoscevo già, era un allenatore in campo come si dice quando giocava nella Juventus, certo. un ottimo tecnico che ha preso una squadra che ha già delle conoscenze calcistiche importanti, lui ha intervenuto sui problemi che aveva la Fiorentina, cioè qualche disattenzione alla fase difensiva, ha colmato questo, si è fatto prendere i giocatori che voleva lui, due o tre, non di più, perché il budget era relativo, e io credo che la Fiorentina possa competere per un lungo tempo. Ma poi è un attaccante sano, cosa che non ha avuto mai Montella? Sì, esatto, il problema di Gomez è stato, e poi sommato a quello di Rossi è stato devastante, probabilmente se Montella fosse stato più fortunato avrebbe fatto di più anche Montella rispetto ai quarti posti, magari terzo di sicuro, perché mancavano pochi punti, arriva al terzo posto, quindi su questa base io dico non è un exploit della Fiorentina strano, improvvisamente c'è un lavoro che dura da diversi anni, non mi meraviglierei se questa squadra cogliesse dei risultati ancora più importanti, però il campionato è appena cominciato, ci sono 4-5 squadre che tecnicamente sono più forte, però sei lì, ma sta vivendo una meravigliosa avventura, e io credo che Napoli-Fiorentina domenica sarà la partita della gioia, mentre a Milano si giocherà in serata la partita della paura tra l'Inter e la Juventus. Enzo, ti ringrazio. Chi perde domenica va in crisi a Milano, invece a Napoli magari la classica partita che, come dicono loro signori, è la classica partita che tutti vorrebbero giocare, anche noi non lo faremo, la guarderemo. No, noi andiamo in panchina, come vi ho detto prima. Andiamo in panchina. Ciao Enzo, grazie. Grazie a te, ciao, buon pomeriggio a tutti, a presto. Grazie Enzo Bucchioni. Paolo Vicenza, buongiorno. E buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Io sono interista. Sì. Seguo spesso l'Inter a San Siro. E domenica sono la partita della paura, domenica, d'accordo. Esatto. Domenica sono stato costretto ad andare allo Juventus Stadium con un mio amico a vedere la Juve. Costretto, con la forza. Costretto. Ha subito delle violenze fisiche o psicologiche? E devo dire che ci asfaltano. Ci asfaltano. ho visto una coppia d'attacco davvero paurosa. Sì. Con tecnica, con, e sembra che giochino al 20%, e quando vogliono segnano. Beh, insomma, nell'avvio di campionato non è stato esattamente così. Cioè, lei l'ha vista con il Bologna, sono andati sotto, poi hanno rimontato, hanno vinto una partita che dovevano vincere per forza, tra l'altro la prima vinta quest'anno allo Juventus Stadium. Però il valore assoluto della Juventus secondo me non l'abbiamo ancora visto. Io sono d'accordo con lei sul fatto che è la rosa più forte del campionato insieme a quella della Roma. Le due rose più forti del nostro campionato sono Juventus e Roma. Poi c'è su un altro piano il Napoli, che ha l'attacco più forte e che è la squadra che in questo momento gioca meglio. Insieme alla Fiorentina si scontreranno. Da lì a dire però che la Juventus asfalterà l'Inter domenica sera a San Siro, un pochino ce ne passa, a mio parere. Gianluca da Venezia, poi cambiamo argomento. Gianluca, dica. Grazie per la convocazione. A lei. Ho chiamato soltanto per un dettaglio, perché mi sembra fosse non corretto. Un ascoltatore ha chiamato dicendo che Baggio non ha mai giocato in Coppa dei Campioni. In realtà ha giocato con l'Inter. Esattamente, siccome sono interista, io gli ho visto fare due gol dal vivo contro Real Madrid, se non mi sbaglio. Ha giocato anche con il Milan. Adesso conteremo le partite che Baggio ha fatto in Champions League, così a memoria non me ne ricordo, perché qualche anno ho visto fare due gol a Ilgner contro il Real Madrid. Contro il Real Madrid, e quelli me li ricordo anch'io. Ha giocato 11 partite Roberto Baggio in Champions League tra Inter e Milan, in due edizioni dell'Inter e del Milan non fortunatissime. Ciao Luca Chiabotti. Buongiorno. Come stai? Ciao Luca. Senti, mi racconti la tua impressione sui primi vagiti del campionato italiano di basket? Beh, che confermano un po' la fine della passata stagione, con Reggio Emilia e Sassari, che sono due squadre secondo me molto interessanti e che staranno lì davanti fino alla fine. Con Trento che, a parte essere trovata a meno 30, poi si sta sassarizzando, sia come mentalità sia come gioco e tipo di gioco e di fisicità, e con diciamo Venezia che c'è qualcosa che ancora non funziona, ma non siamo ancora ben riusciti a capire cosa, perché la squadra c'è, e Milano che parte sempre un po' di rincorsa con tutta una serie di soliti, diciamo, chiamiamoli problemi di assemblamento e quindi con una strada ancora abbastanza lunga da fare. Sì, Milano è ancora una squadra difficile da leggere. Secondo me non è una squadra che ha la stazza dell'Eurolega, cioè è stata probabilmente pensata per il campionato italiano. Ma quello sicuro. Quello sicuramente, anche se dovrebbe avere una durezza superiore a quella di alcune edizioni passate, non quella di due anni fa ad esempio, certamente è una squadra con un talento non eccelso rispetto ad altre edizioni, più tosta, più solida, però adesso cioè il problema è sempre lo stesso con Milano, poi parte a delle difficoltà anche comprensibili e si torna sul mercato e si ricomincia, quindi ci vorrà un bel po' di tempo per capire veramente a regime questa squadra cosa potrà dare. Sì, ci vorrà ancora un po' di tempo e magari ci vorranno altri interpreti, ho l'impressione. Beh, però ripeto, è sempre la solita sfaccenda, nel senso che gli interpreti sono stati scelti, mi sembra, con cura per interpretare un basket repesiano, di un certo tipo. Se una supercoppa che non va, porta subito a cercare altri protagonisti o altri playmaker per poi trovarsi con tre playmaker, diventa sempre più difficile trovare una strada, che però sicuramente Repesa, se può fare Repesa e avrà voglia di fare Repesa, cioè guarda, trattando un po' diciamo alla pari tutti quelli che sono sotto le sue dipendenze, potrà dare sicuramente delle soddisfazioni. Ci vuole calma, ci vuole pazienza. Quello che ho visto fino adesso non è stato particolarmente esaltante, però ribadisco, ci sono anche i motivi per i quali sì, non lo è stato. Questo sì. Luca, grazie, torniamo presto a parlarne. Ok, buon pomeriggio a tutti. Alla prossima con Luca Chiabotti. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Giovanni Melchiorre in redazione. Ci sentiamo domani alle 2, tutti convocati. Ciao, aiuto.